Buonasera e benvenuti su Railroad Radio Station. Questo è Uptown Rockers, il programma più hot della Leaning City. Come sempre al microfono Drago DJ, e visto che l'inverno è ormai arrivato e si prevede una temperatura molto rigida, per iniziare non c'era miglior pezzo che Move It to the Music dei Gonzales, che sicuramente vi farà ballare. To the Music, questi erano i Gonzales di Pete Bellot, il produttore anglo-francese, pezzo datato 1979 ed uscito per la Capitol Records, pezzo tra l'altro registrato a Londra ma per il mercato statunitense. E visto che oggi sono in vena di funk, perché questo era veramente un pezzo disco funk, dato che il prossimo venerdì si avvicina ed è il venerdì del Black Friday, continuiamo il nostro viaggio nella musica di fine 70 con Debbie Jacobs. Il pezzo si intitola Don't You Want My Love e troviamo qui la chitarra di un altro grande produttore, Paul Sabu. We'll be right back. Per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, vi ricordo che siete sintonizzati su Uptown Rockers sulle frequenze di Railroad Radio Station, trasmissione che va in onda ogni mercoledì dalle 22 alle 24 e in replica la domenica alle 21. E chi invece la volesse ascoltare in podcast, e scaricarla, è facilissimo. Basta che su Google digitate Railroad Radio Station e sulla home page trovate tutti i link per scaricarvi le trasmissioni precedenti. Innanzitutto questa sera mi sento particolarmente danzereccio e quindi andrei avanti con un'altra song veramente ballabile. Sto parlando di Going Back to My Roots, pezzo scritto da Lamont Dozier, ma qui reinterpretato dalle Odissei, le Odissei di Steve Tirelli, che nel 1981 ne facevano questa bellissima versione uscita su RCA Victor. Questo è il pezzo tratto dal maxi singolo a 12 pollici. E vi ricordo inoltre che c'è anche un'altra bellissima versione, quella di Richie Evans, ma ora andiamo a sentire le Odissei con Going Back to My Roots. Going Back to My Roots. Lì in City siete ancora svegli, e mentre sotto la torre pendente vive ancora la protesta degli studenti, la protesta studentesca di questi giorni, noi andiamo avanti con la nostra musica per passare a una cosmic song. Sì, una cosmic song, perché mentre a Philadelphia andava molto lo stile portato da Gamble & Huff, qui ci troviamo a Detroit, dove emergeva un'etichetta, la Westbound Records, con due produttori di grosso calibro. Sto parlando di Dennis Coffey e Mike Theodore. Dennis Coffey, ottimo chitarrista, e Mike Theodore invece un tecnico del suono, che facevano loro il suono più cosmic della disco funk. Qui siamo nel 1979. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Disco People, tratto dall'album della Mike Theodore Orchestra. Qui troviamo Mike Theodore senza il suo affidabile socio Coffey. Mike Theodore con Disco People. Rinizziti, ci siete sempre? Questo era il produttore Mike Theodore, che già aveva scoperto insieme al suo socio Dennis Coffey il fantastico gruppo dei CJ & Co con la hit Devil's Gun. E mentre il pezzo che abbiamo ascoltato aveva veramente una cassa dritta di quelle da campionare, come diceva un mio amico anni fa, cassa dritta e pedalare, da Detroit ci ritroviamo invece in Canada, dove scopriamo il produttore chitarrista Gino Socio. Gino Socio, qui ho scelto, ci sarebbero state altre canzoni molto belle sue, ho scelto una dell'ultimo periodo del 1980, sto parlando di Earthbreaker, tratta dal suo LP As Beat, edito inizialmente dalla RFC e non dalla RCF, quella è una marca di Koni per le casse, Koni Audio per le casse. E chiaramente poi questa hit venne portata al successo dalla Warner Bros, dall'americana Warner Bros. Vi ricordo che dopo la parte di speakeraggio che vi offro nella trasmissione Uptown Rockers ci sarà spazio per il nuovo mixato di un'oretta circa. L'ora si è già fatta tarda, restate ancora svegli e ascoltatevi Gino Socio. Gino Socio, Heartbreaker, come dicono gli americani in slang, ma da Gino Socio passiamo a qualcosa di più moderno e sto parlando di Hypno, scritto H-Y-P-N-O. Hypno è un produttore che fa parte della scena, della nuova scena dubstep e UK funk. L'ho scovato in una compilation che era uscita all'inizio del 2010, purtroppo è uscita solamente in CD. Ma poi grazie alla PTN Ramp Recordings sono riuscito a trovare il singolo in vinile in 12 pollici di questo stupendo pezzo, Over the Top. un produttore, come vi avevo detto in precedenza, che fa parte della scena dubstep e UK funk. E, tra l'altro, un genere musicale che è molto ampio, perché in questo pezzo ritroviamo invece delle sonorità più afro e anche un po' acid. Ma andiamo ad ascoltare Hypno, Over the Top. Over the Top, qualcuno mi faceva notare che forse si dice Hypno, come tratto un po' da hype, e io invece pensavo al suono ipnotico che metteva questo pezzo all'inizio, il suono un po' tribale, così dei bonghi. E comunque scusate se il mio inglese alcune volte è un po' maccheronico. Siamo arrivati in fondo, siamo arrivati alla fine dello speakeraggio. Vado con l'ultimo pezzo, sto parlando di una pietra miliare del rap old school. Infatti il prossimo pezzo si intitola The Adventure of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, prodotto appunto da Grandmaster Flash e cantato dai Furious Five. E con questo è tutto. Vi ricordo però un'ultima cosa: il prossimo mixato non è fatto da me, ma da DJ Darius e Fabio Anti, direttamente dalla Nozione del Tempo, un mixato che era già andato in onda su un'altra trasmissione nostra amica. E sto parlando di Ritmo Radio Show, è andato in onda qualche mese fa, ma noi lo riproponiamo sempre con l'intento di stringere saldamente nuove collaborazioni. Buonanotte quindi, ma rimanete all'ascolto con Grandmaster Flash. adventures of Flash. Blow your mind, man.